Le piccole donne di Louisa May Alcott. Capitolo primo. Si gioca ai pellegrini. Un Natale senza doni non è Natale, brontolò malcontenta Jo distesa sul rustico tappeto. Com'è brutto essere poveri, sospirò Meg, abbassando gli occhi sulla vecchia veste che indossava. Non è giusto, dico io, che certe ragazze abbiano tante belle cose e altre niente, aggiunse la piccola Amy indispettita, tirando su con le narici. Abbiamo il babbo e la mamma, però, e ciascuna di noi ha tre sorelle, disse Beth dal suo angolo. Accontentiamoci. Le sue parole di rassegnazione e di coraggio misero un breve lampo di gioia nei quattro giovani volti che il fuoco del camino rischiarava appena, ma si fecero di nuovo scuri quando Joe riprese con tristezza. Il babbo non lo abbiamo, e non l'avremo per tanto tempo. Non diceva forse mai. Ma ognuna in cuor suo le aggiungeva quelle due tristi parole perché il babbo era lontano, dove c'era la guerra. Per un minuto nessuna parlò. Alfine Meg disse con un tono diverso da prima. Lo sapete perché la mamma ha detto di non fare i doni per questo Natale? Perché l'inverno sarà duro per tutti e non le pare bene spendere denaro per i nostri piaceri quando i nostri uomini patiscono tanto alla guerra. Noi siamo piccole e non possiamo fare molto, ma un piccolo sacrificio sì, e lo dovremmo fare con gioia. Ma io non la sentirò quella gioia, temo. E Meg scuoteva il capo, quasi pensasse con rimpianto a tutte le cose belle che avrebbe voluto. Ma io non credo che quel poco che si spenderebbe noi servirebbe granché. Possediamo un dollaro ciascuna. Che ne farebbero di $4 quelli che sono la guerra? No, no, finché si tratta di non avere i regali dalla mamma noi, capisco, ma io voglio comperarmi Ondina e Sintram. È tanto tempo che lo desidero, disse Jo, che era una divoratrice di libri. Io il mio contavo di spenderlo per comprarmi della musica nuova, disse Beth, con un lieve sospiro che fu udito solo dal granatello del focolare e dal cappuccio di feltro sopra la cuccuma. Io mi compro una bella scatola di matite da disegno, Faber. Ne ho proprio bisogno, disse Amy decisa. «La mamma», esclamò allora Jo, «non ha detto niente del denaro nostro e non vorrà che si rinunzi a tutto. Compriamoci ognuna quello che ci occorre, godiamocelo un po' il denaro nostro. Il mio mi pare che ho sgobato abbastanza per guadagnarmelo». E con una mossa da uomo si esaminava i tacchi delle scarpe. «Anch'io me lo guadagno il mio», riprese Meg in tono lamentoso, «quasi tutto il santo giorno a far scuola coi ragazzacci, quando avrei tanta voglia di passarmela allegramente qui, a casa». «Parli tu!» esclamò Jo. «Sto ben peggio io, mi pare, rinchiusa ore e ore con quella vecchia nervosa che non stacchetta un momento e mi fa trottare e non è mai contenta di nulla e mi secca a un punto tale da farmi venire voglia di gettarmi dalla finestra o di prenderla a schiaffi». «Arrabbiarsi non sta bene, ma per me lavare i piatti e tenere in ordine la casa è il lavoro più brutto che ci sia. Sapeste che nervi fa venire? E non basta, le mani perdono l'agilità e gli esercizi al piano non mi riescono più a dovere». E Beth, così dicendo, si guardò le mani ruvide con un sospiro che questa volta fu udito da tutte. «Io non credo che nessuna di voi soffra quel che soffro io», esclamò Amy. «Voi non avete mica da andare a scuola, con le compagne impertinenti che vi burlano se non sapete la lezione, ridono di come vi siete vestite e vi prendono in circolo perché vostro padre non è ricco o perché non avete un bel nasino». «Si dice prendere in giro, non prendere in circolo», osservò Joe con una risata. «Per tua regola so quello che dico io e non cominciare con la tua satiriasi. Bisogna usare un linguaggio distinto, arricchire il proprio arredo di parole», ribatté Amy con molta dignità. «Non state a beccarvi, ragazze. Non ti pare che sarebbe bello, Joe, se il babbo lo avesse ancora, quel denaro che perdé quando eravamo piccine?» disse Meg, che era la più grande di tutte e ricordava tempi migliori. «Ma non dicevi l'altro giorno che secondo te noi siamo più felici che i figli del re, perché quelli con tutto il loro denaro si arrabbiano e litigano sempre?» «Sì, Beth, lo dicevo, e ripensandoci, ecco, avevo ragione. È vero che abbiamo da lavorare, ma ci spassiamo anche, a modo nostro. Siamo una paranza discretamente allegra, noi, come direbbe Jo». «Già, lei dice sempre parole volgari», osservò Amy con un'occhiata severa alla lunga figura distesa sul tappeto. E Jo subito si levò, si cacciò le mani nelle tasche del grembiule e si mise a zufolare. «No, Jo, non fischiare, è da maschi! Per questo lo faccio! Non mi piacciono a me le ragazze grossolane senza delicatezza femminile. E a me non vanno giù le mocciose piene di aria e di smorfie!» Così cantano d'accordo gli augelletti dentro il nido, canticchiò Bette, la pacera, con un'espressione tanto buffa che le voci irose si fecero dolci e così finì il battibecco. Veramente, bimbe mie, avete torto tutte e due, disse Meg, incominciando a predicare come spettava alla sorella maggiore. Tu sei grande abbastanza, Josephine, per smetterla con le mosse e le maniere da maschio e per saperti contenere meglio. Finché eri piccola, poco male, ma ora che sei cresciuta e non porti più le trecce, dovresti ricordarti che sei una signorina. Nemmeno per sogno. E se coi capelli tirati su divento una signorina, le voglio portare sino a 20 anni le trecce, esclamò Joe, togliendosi la reticella e lasciando cadere la bella capigliatura di color castagno. Non ne voglio sapere io di crescere, di diventare Miss March e portare le vesti lunghe, di fare la preziosa e il fiore di serra. È già una bella seccatura essere femmina, quando mi piacciono i giochi dei maschi e le loro maniere, le loro occupazioni. Non mi posso rassegnare io a non essere nata uomo. Adesso poi è peggio ancora, che avrei tanta voglia di andare col babbo alla guerra e me ne debbo stare a casa a fare la calza come una povera vecchina. E Joe agitò il suo lavoro di maglia così forte che le bacchette sbatacchiarono fra loro come nacchere e il gomitolo andò a rimbalzare e a rotolare sul pavimento. È brutto, eh, povera Joe? Ma non c'è rimedio, bisogna che ti accontenti di farti chiamare Joe e di fare il maschiaccio con noi, disse Betta, accarezzando la testa arruffata che si trovava all'altezza delle sue ginocchia, con una mano che, per quanto lavasse i piatti e spolverasse, aveva sempre un tocco lieve e gentile. Tu poi, Amy, continuò Meg, sei un po' troppo meticolosa e affettata, con certe arie che ti dai. Finché sei ancora bambina ci si ride, ma se non stai attenta diventerai col tempo un'occhetta, posatrice e antipatica. Piace di vederti usare certe maniere graziose o un linguaggio fine, ma per carità, non cercare l'eleganza affettata. Certe parole difficili urtano i nervi, tale quale come il gergo di Joe. E se Joe è un ragazzaccio e Amy un'oca, io cosa sono allora? Chiese Beth. Voleva la sua parte anche lei. Tu sei un amore e nient'altro, rispose Meg con calore, e nessuno la contraddisse perché Topolino era la prediletta di tutti in casa. Ma i giovani lettori e le giovani lettrici vorranno sapere come sono i personaggi della nostra storia, e noi a questo punto schizzeremo un po' il ritratto delle quattro piccole donne mentre esse occupano il lungo crepuscolo d'inverno facendo la maglia, e fuori cade silenziosa la neve e dentro scoppietta gaiamente il fuoco. La vecchia stanza che le accoglie è comoda e spaziosa, ma il tappeto in terra è estinto e il mobilio non è affatto nuovo né ricco. Però alle pareti pendono un paio di buoni quadri, gli angoli sono pieni di libri e alle finestre fioriscono crisantemi e rose di Natale. Su tutto l'insieme aleggia un'atmosfera di pace e di dolce intimità. Margherita, Meg, la più grande delle quattro, aveva 16 anni ed era carina, bionda, fresca e fiorente, con gli occhi grandi e i capelli morbidi e abbondanti di un bel colore oro. La bocca dolce e le mani candide, delle quali era un po' orgogliosa. Joe, 15enne, alta, snella e bruna, faceva pensare a un puledro. Le braccia e le gambe piuttosto lunghe le davano impaccio, pareva non sapesse che farne. La sua bocca aveva un'espressione forte e risoluta, il naso era un po' ridicolo, gli occhi grigi e vivacissimi pareva vedessero tutto e un po' lampeggiavano, fieri, un po' ridevano, un po' erano pensosi. Unica sua bellezza la capigliatura lunga e folta, ma di solito la chiudeva senz'arte in una reticella perché le dava fastidio. Con le spalle un poco tonde, le mani e i piedi grandi, il vestire piuttosto trascurato, aveva un'aria irrequieta di maschiaccio che va diventando rapidamente donna e non ne è affatto contenta. Elisabetta, Beth, come la chiamavano tutti, aveva 13 anni ed era rosea, coi capelli morbidi, uno sguardo dolce e luminoso e nelle maniere e nella voce una certa timidezza, un'espressione di dolcezza ben raramente turbata. Piccola tranquillità, la chiamava il babbo. E il soprannome le stava benissimo. Sembrava che vivesse a parte, in un mondo felice tutto suo, e non ne uscisse che per incontrarsi con le poche persone che le ispiravano fiducia e affetto. Amy, la più piccola delle quattro, era però la più importante, almeno nel suo concetto, una bambola di neve coi tratti irregolari e gli occhi azzurri, i capelli sciolti e arricciati che le cadevano sulle spalle. Pallida e snella, aveva sempre un contegno da piccola dama riservata e guardinga. Questa è l'apparenza. Come fossero poi in fondo i caratteri delle quattro sorelle, si vedrà nel seguito del racconto. L'orologio batté le 6. Beth, che aveva scopato il focolare, vi posò un paio di pantofole per scaldarle. La vista di quelle vecchie calzature produsse nelle quattro ragazze un certo effetto buono. Tornava la mamma. I volti si rasserenavano per accoglierla. Meg smise di far la predica e accese la lampada. Amy si tolse dalla poltrona senza farselo dire. Joe dimenticò la stanchezza e si levò per tenere le pantofole più vicino alla fiamma. Sono finite. Ce ne vorrebbe un altro paio per la mamma. Io ho pensato di farle venire fuori dal mio dollaro, disse Beth. No, gliele compro io, esclamò Amy. Io sono la più grande, cominciò Meg, ma Joe la interruppe decisa. Nella famiglia l'uomo sono io, ora che il babbo non c'è, e alle pantofole ci penso io. A me il babbo ha raccomandato di avere una cura speciale per la mamma durante la sua assenza. Sentite cosa faremo, disse Beth. Ciascuna le comprerà qualcosa per Natale e per noi non compriamo niente. Sempre tu, cara, hai l'idea più gentile, esclamò Joe. E cosa le compriamo? Meditarono tutte e quattro per un momento, serie serie. Alla fine Meg, come se l'idea le fosse suggerita dalle sue manine, annunziò: Io le prendo un bel paio di guanti. E io un bel paio di scarpe robuste, le più belle che si trovano, dichiarò Joe. Io penso ai fazzoletti, con l'orlo e tutto, disse Beth. E io prendo una bottiglia di colonia. Le piace e non costa molto, così mi resta qualche cosa da spendere anche per me, disse Amy. Come facciamo a consegnargliele queste cose? Chiese Meg. Oh, si posano gli involti sulla tavola e poi si chiama la mamma che li apra lei, rispose Joe. Non vi ricordate? Sempre si è fatto così quando era il compleanno di una di noi. E che paura io quando toccava a me sedermi nel seggiolone con la corona in capo e voi altre che mi sfilavate davanti, ognuna col suo dono, e mi davate il bacio. Bello tutto, regali e baci, ma che paura, con voi sedute lì davanti a guardarmi aprire i pacchi, disse Beth, che intanto abbrustoliva la fiamma contemporaneamente il suo volto e le fette di pane per il tè. Alla mamma facciamo la sorpresa. Prima le si lascia credere che abbiamo comperato delle cose per noi. Ci si va domani nel pomeriggio, Meg. Ora c'è un mondo di lavoro da fare per la recita della vigilia di Natale, disse Joe camminando su e giù con le mani dietro la schiena. Questa è l'ultima volta che recito, dichiarò Meg. Sono troppo grande ormai per queste cose. In realtà, quando c'era da mettersi in costume, Meg era sempre bimba. Tu? Disse Joe. Tu non sarai mai stufa, finché ci sarà da trascinare la coda della veste bianca coi capelli sciolti e i gioielli di carta dorata. Sei l'attrice più brava che abbiamo. Se abbandoni le scene tu, addio, tutto va a rotoli. Bisogna provare adesso. Su, Amy, ripeti la scena dello svenimento. Quando cadi, vai sempre giù dura come un manico di scopa. Ma come devo fare? Non ho visto mai svenire nessuno. E poi non voglio farmi male a cascar di botto a quel modo. Se mi riesce, vado giù comoda e tutto va bene. Se no, mi lascio andare sopra una sedia, cercando di metterci tutto il garbo che posso. Non importa se Ugo mi spiana la pistola contro, quella parte in realtà a Amy gliela davano, non perché avesse grandi attitudini drammatiche, ma perché, essendo la più piccola, il primo attore poteva portarla fuori di peso, come richiedeva la scena. Fa così, senti. Tu giungi le mani a questo modo e attraversi la camera barcollando e gridando disperatamente «Salvami, Roderigo, salvami!» E Joe faceva la mossa e il grido con un effetto da dare i brividi. Amy la imitò, ma lei le mani le protendeva rigide e il passo era quello di un automa. Il suo gemito, più che di spavento, di angoscia, faceva l'impressione che le piantassero degli spilli in qualche parte. «Poveri noi!» osservò Joe, mentre Meg scoppiava a ridere e Beth, per guardare la scena, carbonizzava una fetta di pane. «È inutile. Senti, cerca di far meglio che puoi quando sei lì, e se il pubblico ti becca, non pigliartela con me.» Da quel punto ogni cosa camminava liscia. Don Pedro sfidava il mondo intero con una tirata di due pagine senza una pausa. Agar, la fattucchiera, declamava lo scongiuro tremendo sulla caldaia bollente piena di rospi con effetto orripilante. Roderigo, con un gesto poderoso, spezzava le catene che gli avvincevano i polsi e Ugo moriva straziato dal rimorso e dall'arsenico, emettendo un grido raccapricciante. È il più bello di tutti i drammi che abbiamo recitato finora, disse Meg, mentre il fellone si levava a sedere fregandosi i gomiti. Ma come fai, di, a scrivere e a recitare tante belle cose, Joe? Sei un altro Shakespeare, tu? Esclamò Beth, convinta sempre che le sue sorelle avevano un genio meraviglioso in ogni cosa. Ah, non esagerare. La maledizione della strega, tragedia musicale, è una cosa discreta, non dico di no, ma io vorrei che ci provassimo a fare Macbeth. Basterebbe avere il trabocchetto per banco. Quanto mi piacerebbe a me fare la scena dell'assassinio. È un pugnale che io veggo a Medinante? chiedeva fra i denti Joe, girando gli occhi, afferrando qualcosa nel vuoto come aveva veduto fare a un attore famoso. No, è la forchetta per abbrustolire il pane. Ma Beth si è entusiasmata e non capisce più che cosa fa. Invece del pane ci ha infilzato una pantofola della mamma, esclamò Meg, e la prova finì in una risata generale. Mi fa piacere trovarvi allegre, bambine mie, disse una voce gaia sulla porta. Artisti e pubblico si rivoltarono a salutare una signora un po' grossa, dall'aria materna, di cui tutta la persona pareva dicesse, con un bel sorriso, «Eccomi qua, cosa posso fare per voi?» Non si distingueva per una gran bellezza, ma per i figlioli la mamma è sempre bella, e per le quattro ragazze la sua veste grigia e il cappello passato di moda rivestivano la donna più meravigliosa che ci fosse al mondo. «Ebbene, care, com'è andata oggi?» C'era tanto da fare a preparare le scatole da spedire domani e io non sono venuta a pranzo. C'è stata qualche visita, Beth? Il raffreddore come va? Meg? Joe, tu mi sembri stanca morta. Tu, bimba, vieni qua, dammi un bacio. E mentre parlava, la mamma si toglieva di dosso le cose bagnate, calzava le pantofole calde e, sedutasi nella poltrona, si tirava in grembo Amy. Era l'ora più felice della sua giornata laboriosa. Le ragazze si affrettavano da ogni parte, cercando ognuna a suo modo di farla stare comoda. Meg preparava la tavola per il tè, Joe portava la legna e disponeva le seggiole, lasciando cadere, rovesciando e sbattendo tutto quello che toccava. Beth, tranquilla e affaccendata, trottava innanzi e indietro tra il salotto e la cucina. Amy infine dava consigli a tutte con le braccia in croce, senza muoversi da sedere. Quando furono intorno alla tavola, la signora March, con un sorriso più gaio del solito, disse «Ho una bella novità per voi, dopo cena». Su tutti i volti brillò un sorriso come un raggio di sole. Beth, senza badare al biscotto caldo che aveva in mano, applaudì e Joe buttò per aria il tovagliolo, gridando «Una lettera! Una lettera! Tre viva per il babbo!» «Sì, una bella lettera lunga. Sta bene e conta di cavarsela nella stagione fredda, meglio di quanto si temeva. Manda ogni sorta di auguri affettuosi per Natale e un messaggio speciale per voi, bambine», disse la signora March, battendosi la tasca come se contenesse un tesoro. «Sbrighiamoci, facciamo presto», esclamò Joe. «Tu non stare a gingillarti con la tazza e il piattino, Amy, e con quel ditino staccato dagli altri». E nella fretta di vedere la novità per poco, non inghiottì il tè di traverso e lasciò cadere la sua fetta di pane sulla tovaglia, con la faccia imburrata sotto. Beth smise di mangiare e si ritirò cheta cheta nell'ombra del suo cantuccio, pregustando il piacere atteso finché fossero pronte tutte. È stato bello da parte del babbo andare volontario come cappellano, visto che è troppo vecchio per essere arruolato e non abbastanza forte per fare il soldato, esclamava Meg con calore. Ah, che piacere, se potessi andare a fare il tamburino, la vivan, come si dice più, o l'infermiera. Insomma, potermi trovare vicino a lui e assisterlo, rimpiangeva Joe. Non deve essere bello, sospirò Amy, dormire sotto la tenda, mangiare ogni sorta di roba cattiva e bere nella gavetta di latta. Quando verrà a casa, mamma? Chiese Beth con un lieve tremito nella voce. Per parecchi mesi non potrà venire, cara, a meno che non si ammali. Egli sta lì e fa il suo servizio fedelmente fino a che può. E noi non vogliamo che torni un minuto prima di quando non avranno più bisogno di lui. Sentite la lettera adesso. Si strinsero tutte vicino al focolare, la madre nel seggiolone con Beth ai suoi piedi, Meg e Amy arrampicate sui due braccioli, Joe appoggiata alla spalliera, in modo che nessuna delle altre potesse vederla qualora per caso le sfuggisse un segno di commozione. Non molte lettere si scrivevano in quegli anni duri che non fossero commoventi, specialmente quelle dei padri di famiglia e i loro cari. Il signor March ben poco parlava della sua vita disagiata, dei pericoli, della nostalgia per la casa con cui aveva da lottare. La sua era una lettera allegra, piena di speranza e anche di descrizioni vivaci della vita al campo, di marce e di notizie militari. Solo alla fine dal suo cuore paterno traboccava l'affetto e il desiderio della casa e delle bambine. Tutto il mio amore e un bacio alle piccine. Di loro che io penso ad esse il giorno, prego per esse la notte, e in ogni tempo trovo il mio conforto nel loro affetto. Aspettare un anno per vederci è lungo, ma rammenta loro sempre che mentre si aspetta si può lavorare e fare in modo che tante giornate dure non passino inutilmente. Son certo che si ricordano tutto ciò che ho detto loro, che sono sempre per te figliuole affettuose, che fanno il loro dovere da brave e da brave lottano col nemico che ciascuno di noi porta dentro, vincendo se stesse E tanto bene che quando io ritornerò avrò ancora più ragione di amare le mie quattro donnine e andarne orgoglioso. Alla fine della lettera non c'era naso che non tirasse su. Joe, senza vergogna, lasciò scorrere un grosso lacrimone per tutta la lunghezza del suo, che non era corto, prima di cadere giù. Amy, incurante dei ricci che si scompigliavano, posava singhiozzando il volto sulle spalle della mamma. «Ah, che brutta egoista sono!» esclamava. «Ma voglio cercare di essere più buona e presto il babbo sarà contento di me. Non tradirò le sue speranze.» «Nemmeno io!» esclamava Meg. «Mi guardo troppo allo specchio io e non mi piace lavorare, ma adesso voglio cambiare sistema, se mi riesce.» «Io cercherò di essere una vera donnina, come mi chiama lui, e starmene contenta qui, a fare il mio dovere, senza fantasticare sempre di andarmene chissà dove», disse Joe. Sentiva però in cuor suo che trattenere i propri scatti in casa era impresa molto più dura che affrontare i ribelli laggiù, nel sud. Beth non diceva nulla, ma asciugati gli occhi con la calza da soldati azzurra che andava facendo, si metteva con tutte le forze a sferruzzare. Si applicava senza chiacchiere e senza perdere tempo al lavoro presente, con la promessa di essere in quel giorno sospirato che il babbo tornerebbe in permesso, quale egli la voleva. Non c'era bisogno che lo proclamasse. Lei. Il silenzio che seguì alle parole di Joe fu rotto dalla signora March con la sua voce dolce e gaia. Vi ricordate quando eravate alte così che giocavate a fare i pellegrini? Come eravate contente quando vi legavo sulla schiena i sacchetti dove tenevo gli stracci che erano il vostro fardello e col cappellone, il bordone, il rotolo di pergamena percorrevate tutta la casa dalla cantina, che era la città della distruzione, su fino al piano più alto dove avevate messo insieme le più belle cose che possedevate per farne la città celeste? Com'era bello quando si passavano i leoni e si combatteva con Napoleon e si superava la valle dove c'erano le streghe e i mostri, esclamò Joe. A me piaceva tanto dove il fardello cascava e rotolava giù per le scale, disse Meg. Il più bello per me era quando si usciva sopra il tetto spianato dove c'erano i fiori e le pergole e tante belle cose e si stava lì tutte a cantare i canti di gioia nel sole, disse Beth, sorridendo come se quei bei momenti fossero tornati. Io non mi ricordo molto, salvo che avevo paura della cantina e dell'entrata scura, e mi piaceva la torta e il latte che trovavamo su in cima. Se non fossi troppo grande ormai per queste cose, lo rifarei volentieri quel gioco. Amy aveva raggiunto la matura età di 12 anni e quindi parlava di rinunziare ai trastulli dell'infanzia. Ma la mamma disse: per quel gioco lì non si è mai troppo grandi, si seguita a farlo in un modo o nell'altro tutta la vita. Il fardello lo abbiamo sempre, sempre si apre una strada dinanzi a noi, e l'ispirazione alla bontà e alla felicità è la guida che ci conduce attraverso mille affanni e mille errori, alla pace, che è la vera città celeste. Per cui, mie piccole pellegrine, fate conto di ricominciare adesso, non per scherzo, ma sul serio, e vedete un po' a che punto della strada vi riesce di arrivare prima che il babbo torni a casa. Davvero, mamma? E dov'è il fardello? Domandò Amy, che prendeva sempre le cose alla lettera. Ciascuna di voi, rispose la madre. L'ho detto poco fa qual era il suo fardello, meno Beth che non lo ha, secondo me. No, mamma, l'ho anch'io. Le stoviglie e gli stracci della polvere e l'invidia che mi fanno le ragazze che hanno un bel pianoforte e la paura che ho della gente. Il fardello di Beth. Le sorelle per poco non risero, ma si rattennero perché l'avrebbero fatta soffrire. E facciamolo ancora il gioco, disse Meg, riflessiva. In fondo non è che un altro modo per dire cercare di essere buone. Il pellegrinaggio può esserci di aiuto perché la voglia di essere buone l'abbiamo, ma l'impresa è difficile e a un certo punto ce ne scordiamo se non ci mettiamo tutta la volontà. Questa sera, per esempio, noi eravamo nel pantano dello scoraggiamento e arrivò la mamma e ci tirò fuori come fa Speranza nel libro. Bisognerebbe avere la pergamena con le istruzioni scritte come l'aveva Cristiano. Come si fa? Chiese Joe, divertendosi a quella fantasia che coloriva con un po' di romanzo il prosaico dovere di tutti i giorni. Ciascuna di voi cerchi sotto il cuscino la mattina di Natale, disse la signora March, e troverà la guida. Parlarono ancora del nuovo programma mentre la vecchia Anna sparecchiava la tavola. Poscia vennero fuori i quattro cestini del lavoro e cominciarono gli aghi a muoversi di buona voglia. Facevano le lenzuola per la zia March, un lavoro poco interessante, ma quella sera nessuno brontolò. Joe ebbe un'idea che fu subito applicata da tutte. Ognuna di quelle lunghe cuciture la dividevano in quattro parti, Europa, Asia, Africa e America. Così andavano avanti benone perché ad ognuna delle parti che cucivano parlavano del paese corrispondente e in breve tempo si giungeva alla fine. Alle 9 smisero di lavorare e prima di andare a letto cantarono un poco come facevano sempre. Non c'era che Beth capace di far venire fuori un po' di musica dal vecchio piano. Beth aveva un modo tutto suo, un tocco leggerissimo sui tasti ingialliti, e riusciva a fare un piacevole accompagnamento alle semplici melodie che cantavano. Meg aveva una voce di flauto e lei e la mamma guidavano il piccolo coro. Amy strideva come un grillo e Joe stonava con disinvoltura, entrava tranquillamente più o meno fuori tempo e faceva ridere, anche se la musica era sentimentale. Il canto serale era loro abituale fin dall'età che sapevano dire appena billa billa piccolatella, ed era diventata un'usanza di famiglia con la mamma che era una musicista nata. La prima voce che udivano la mattina era la sua, mentre si affaccendava per la casa cantando come una lodola. E l'ultimo suono che le cullava la sera era la ninna nanna della mamma. Già grandicelle, non erano ancora cresciute tanto da farne senza.